Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Il lusso esteriore degli Uzeda, che prima del 60 pareva straordinario, adesso cominciava ad essere agguagliato, se non superato, dai nuovi arricchiti. E mentre a palazzo i mobili di 50 anni addietro cadevano a pezzi e le livree del secolo passato servivano al pasto delle tignole, c'era gente che spendeva un occhio del capo a metter su case ed equipaggi col gusto moderno. Consalvo lavorava per suo conto a distruggere gli effetti della spilorceria paterna. Quando, attillato negli abiti venuti apposta da Firenze, guidava come il più esperto cocchiere un tiro a quattro, fermandosi per far salire gli amici che incontrava lungo la via, avanzando poi tutti gli altri equipaggi, frustando come i suoi antenati i cocchieri che osavano contrastargli il passo, la gente si fermava ad ammirare, a ripetere il suo nome e il suo titolo con un senso d'alterezza. Quasi un poco del suo lustro si riversasse su chi poteva salutarlo, su chi lo conosceva almeno di nome, sulla stessa città che gli aveva dato i natali. Le sue gesta avevano anche un altro campo. Insieme con gli amici più scapestrati, aveva combinato una compagnia che era la notte il terrore di mezza città. Armati di stocchi, di revolver o anche di semplici coltelli, portavano a spasso le ciarpe di infima classe, cantando a squarciagola, spegnendo i fanali del gas, attaccando briga coi passanti, facendo aprire per forza, a furia di schiamazzi e di sassate ai vetri, le taverne e le case pubbliche, giocando al tocco o a briscola coi bretoni, ordinando cene che finivano con la rottura di tutte le stoviglie. I padroni li lasciavano sbizzarrire perché se facevano danni sapevano anche risarcirli. Certe volte, però, per capriccio, per il gusto di commettere un sopruso, per esercitare l'ereditaria prepotenza dei viceré, il principino non voleva pagare lo scotto o lo pagava a legnate. Giovannino Radalì veniva spesso con lui, ma quantunque ora fosse libero, ricco e barone, non aveva l'umore costante. Talvolta faceva pazzie straordinarie, talaltra frenava i compagni. Più spesso, prendendo parte ai bagordi, aveva la cera funebre, un riso falso. Quanto ai parenti, essi o lo incoraggiavano a scialare, o non si occupavano di lui, o erano disarmati dalla sua politica, giacché egli sapeva prenderli per il verso loro, secondando le fisime di ciascuno. Solo Benedetto comprendeva che quella vita doveva costargli molto e sospettava qualcosa dei debiti. Ma il giovanotto lo tirava dalla sua, solleticandolo nella sua vanità di patriotta, di ferito del Volturno, di futuro deputato. E del resto, se Benedetto manifestava le proprie paure alla moglie perché questa mettesse sull'avviso il principe, «Di che ti mescoli?» saltava su Lucrezia. «Lascialo fare! Credi che mio nipote sia un pezzente da non potersi permettere questo lusso? Può pagarli i suoi debiti, se mai!» Più tardi, per ringraziarsi meglio donna Ferdinanda, Consalvo le dava ragione se l'udiva gridare contro il fedifrago. E in questo era sincero, perché senza mescolarsi di politica, egli parteggiava per il governo assoluto, protettore dei signori, sciabolatore della canaglia. Così, nonostante la freddezza pel padre, seguiva l'esempio di lui, pigliando ciascuno per il suo verso, secondando le fissazioni di tutti gli Uzeda. Quanto a Don Blasco, da un pezzo non si faceva più vedere a palazzo. Da che stava per casa sua, amministrando i propri capitali, la sua smania di criticare tutto e tutti in famiglia era finita. Quando capitava fra i parenti, discorreva un poco del più e del meno e andava via presto. Un bel giorno, però, Benedetto, leggendo nel foglio degli annunzi della prefettura l'elenco degli ultimi aggiudicataria dei beni ecclesiastici, trovò il nome di Matteo Garino. «Non si chiama così il marito della sigaraia?» domandò alla moglie. «Credo. Perché?» «Ha comprato il Cavaliere, una delle migliori terre dei Benedettini!» Senza esitare un istante, Lucrezia esclamò. «Garino! Questo è lo zio Don Blasco che l'ha comprato!» un monaco benedettino, uno che aveva fatto voto di povertà, comprare una terra del suo stesso convento, calpestare in tal modo la legge divina. Thank you. Una notte, mentre Lucrezia a letto russava profondamente e Benedetto studiava a tavolino il bilancio comunale, una scampanellata improvvisa fece sussultare il marito e destò la moglie. Andato ad aprire, Benedetto si vide dinanzi il principino bianco in viso come un foglio di carta. «Datemi da lavare», disse lo zio traendo dalla tasca della giacchetta la destra rossa di sangue. «Consalvo, che è stato? Che hai?» «Nulla, non gridate. Per aprire una finestra ho rotto un vetro, mi sono tagliato. Datemi da lavare, è una cosa da nulla». La verità si seppe il domani. Da un pezzo, Consalvo andava dietro la figlia del barbiere del Belvedere, Gesualdo Marotta, una ragazza che si tirava su per pettinatrice e quantunque girasse sempre per le vie non dava retta a nessuno, con una gran paura dei fratelli poco disposti, articolo onore, a scherzare. Allora, vedendo che con le buone non otteneva nulla, Consalvo fece un bel giorno rapire la ragazza e la tenne 3 giorni con sé al Belvedere. I fratelli, per un certo tempo, stettero zitti, quasi fossero al buio. Solo, quella brutta notte, mentre il principino usciva dal caffè di Sicilia in compagnia di Giovannino Radalì, s'era sentito urtare e squarciare da una lama tagliente la mano distesa istintivamente per difendersi. «Ci rivedremo», aveva detto l'aggressore scappando alle grida di Radalì. Il duca, udito il fatto e quel che volevano da lui, invece di dar ragione al pronipote, fece inaspettatamente una gran sfuriata, tanto più strana quanto che non era nel suo carattere. Nessuno l'aveva mai visto così rabbuffato. Un altro poco e pareva suo fratello Don Blasco. La questione era che i suoi avversari tentavano con accanimento un nuovo assalto alla sua reputazione e che l'imbroglio di Consalvo dava loro buono in mano. Il deputato non andava da 2 anni alla capitale, dimenticava interamente gli affari pubblici per badare ai propri. Che gran patriota, eh? Ma quando pure ci fosse andato, che cosa avrebbe fatto lì dentro? Che cosa aveva fatto in 8 anni di deputazione? Come un burattino, aveva alzato ed abbassato il capo per dire sì o no, secondo cosa gli imbeccavano. E avesse una volta, una sola volta aperto la bocca. Si scusava col dire che il pubblico lo sgominava. Ma la verità era che non aveva neppure l'ombra di un'idea in fondo alla zucca, che non sapeva scrivere un rigo senza fare 7 spropositi, e credeva di poter nascondere la sua assoluta ignoranza con l'aria di presunzione e di sufficienza. E ad una bestia di quella cubatura affidavano tutti gli affari della città e della provincia, lasciavano dettar sentenze intorno a ogni sorta di questione, di istruzione pubblica, di ingegneria, di musica, di marina. Non contento di esercitare personalmente tanto potere, ficcava i suoi aderenti dappertutto perché facessero il suo gioco. Così Giumente zio aveva avuto la direzione della banca, così Giumente nipote era stato fatto sindaco. Tutte quelle accuse dei suoi nemici giravano per il paese, trovavano credito, erano una minaccia. Giulente prendeva le sue difese, ma adesso non lo ascoltavano più come un tempo. Il discredito del deputato si estendeva un poco su di lui. I certuni, bene informati, assicuravano che una volta, nei primi tempi del nuovo governo, egli aveva pronunziato una frase molto significativa, rivelatrice dell'ereditaria cupidigia viceregale, della rapacità degli antichi Uzeda. «Ora che l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri». Dunque, in queste condizioni dell'opinione pubblica, il pasticcio del nipote seccava moltissimo Don Gaspare. Dopo aver esitato un poco fra i due partiti, facendo sentire a Consalvo il peso del proprio sdegno, ma difendendolo dinanzi agli estranei, egli si apprese al più audace. Il più facinoroso fratello della pettinatrice fu chiamato un giorno da un ispettore di polizia, il quale gli consigliò per il suo meglio di desistere dalle minacce, altrimenti lo avrebbero denunziato per l'ammonizione. Nello stesso tempo i testimoni del ratto voltarono casacca, dichiararono invece che la ragazza era andata liberamente alla villa Uzeda e si trovarono poi 2 contadini che dissero di avercela veduta altre volte e parecchi altri quali affermarono che in paese si diceva non essere quella la prima scappata della ragazza. Thank you. Il principe aveva lottato tutta la vita, fin dall'età della ragione, per accumulare nelle proprie mani quanto più denaro gli era stato possibile, per toglierlo alla madre, ai fratelli, alle sorelle, alla moglie. Meglio di tutti gli altri Uzeda, egli era il rappresentante degli ingordi spagnoli, unicamente intenti ad arricchirsi, incapaci di comprendere una potenza, un valore, una virtù più grande di quella dei quattrini. E adesso che era riuscito nel proprio intento, che vedeva arrivato il tempo di godere serenamente il frutto delle lunghe e pazienti fatiche, ecco suo figlio cominciare a disporre di quella fortuna come di cosa propria. E non voleva essere seccato per giunta, e rispondeva con quel tono a suo padre. «Ah, ti farò vedere io se ti secco. Come t'accomoderò? Qui il padrone sono io. Ficcati bene quest'idea nel cervellaccio pazzo. Qui s'ha da far sempre unicamente in tutto e per tutto la mia volontà. Perché sono stato fin troppo buono finora? Ti farò vedere io, pezzo d'imbecille. La dignità del tuo nome calpestata in compagnia dei più schifosi bagordieri. E non parlo dei denari scialacquati, buttati via come fossero sassi. Chi spende per capricci, per divertimenti pazzi quanto questa bestia? Io non ti posso imporre l'affezione, e non importa che me ne voglia, ma esigo il rispetto che m'è dovuto, esigo il rispetto che devi a tua madre!» Consalvo non aveva detto una sola parola, non aveva fatto un gesto durante la sfuriata del principe, ma alle ultime parole si voltò lentamente. «Mia madre?» Aveva sul volto un'espressione indefinibile, di curiosità, di stupore, di dubbio, dominata da un sorriso tenuissimo, di soli occhi. «Mia madre? Mia madre è morta. Lei lo sa meglio di tutti!» Il principe tacque, guardandolo. A un tratto si udì un fruscio di gonne e la principessa Graziella, avvertita dalla cameriera che aveva udito le voci, entrò. «Che cosa c'è? Che cosa avete?» Consalvo si mise le mani in tasca e senza dir nulla passò nella camera attigua. Il principe si lasciò condurre via dalla moglie. Donna Ferdinanda, manco a dirlo, se la prendeva con l'avarizia del principe, che non dando abbastanza al figliuolo lo costringeva a ricorrere al credito, e Chiara dava un poco ragione agli uni e un poco agli altri, secondo l'umore di Federico. Quanto a Don Blasco, che da un pezzo era diventato invisibile, un bel giorno, venuto a palazzo, cominciò a prendersela non solo contro Consalvo per i debiti e la condotta scandalosa, ma anche contro il principe e la principessa, alla cui debolezza attribuiva lo sfrenamento del giovanotto. «La colpa è tutta vostra. Questo non è modo d'educarlo. Pagargli i debiti, alzargli la mangiatoia bisogna». E senza nominarla si scagliò contro donna Ferdinanda, dandole della bestia a tutto spiano, perché coi vezzi che gli aveva fatti ella era l'origine prima della mala creanza del principino. Donna Ferdinanda riseppe il discorso tenuto dal monaco nello stesso tempo che il suo sensale le dava una notizia strepitosa. Don Blasco, non contento d'aver comprato la tenuta di San Nicola, aveva preso dal demanio, giusto in quei giorni, una delle case appartenenti al convento. Il palazzotto di mezzogiorno, l'antica abitazione della sigaraia, ed armeggiando così bene da farselo aggiudicare per un boccone di pane. Allora, apriti cielo. Anche la casa, gridò la zitellona. Io l'ho sempre detto che è un porco, un vero maiale, e fa la voce grossa contro gli altri dopo quello che ha sulla coscienza. Che gli estranei comprino i beni del convento, si capisce, non hanno nessun obbligo, ma lui, che se non l'avessero fatto monaco sarebbe morto di fame, che si è ingrassato a spese della comunità. Inoltre, Don Blasco, facendo costruire un bel muro sodo e alto, irto di rovi e di cocci di bottiglie, s'era appropriato qua e là molti ritagli di terra. A un certo angolo, dove non restavano più tracce della siepe, aveva annesso al cavaliere un bel tratto dell'altro fondo. Ora la cosa, venuta in chiaro all'intendenza di finanza, gli aveva fatto piovere in casa certa carta bollata, per cui il monaco s'era messo a sbraitare come ai bei tempi contro i ladri italiani e quasi quasi voleva riconciliarsi coi reazionari della farmacia. Da anni e anni non rivolgeva più la parola al fratello, da un tempo più lungo ancora lo vituperava in pubblico e in privato. Don Gaspare dunque rimase, vedendoselo apparire dinanzi. «Sai che ho comprato il cavaliere da San Nicola? Non c'era più la linea del confine e feci alzare un muro. Per questo il demanio m'accusa d'usurpazione!» Il duca continuava a sorridere in pelle, godendosela. E poiché il monaco taceva, credendo di non aver bisogno d'aggiungere altro, egli, che voleva avere la soddisfazione di sentirsi richiedere d'aiuto da quell'arrabbiato che gli aveva mossa tanta guerra, fece. «E? Non si potrebbe parlare con qualcuno?» Così, con immenso stupore di tutta la parentela, furono visti i due fratelli andare insieme su e giù per le scale dell'intendenza, della prefettura, del genio civile e del catasto. In pochi giorni la cosa fu avviata bene, ma il duca suggerì al cassinese una soluzione radicale. «Perché non compri addirittura l'altro fondo? E i denari?» «I denari si trovano». Per suo mezzo, Don Blasco fu ammesso allo sconto alla banca di depositi e crediti e una cambiale di 25.000 lire del monaco passò. Da quel giorno Don Blasco prese l'abitudine di frequentare la nuova farmacia. Vi bazzicavano i liberali più arrabbiati, i quali gridavano contro il governo, contro quegli altri retrogradi, ma per una ragione diversa. Perché era un governo di conigli, di lacchè della Francia, di lustra stivali di Napoleone III. perché perseguitava i patriotti veri e faceva il gesuita nella questione romana. Gli rinfacciavano Spromonte e Mentana, ma Roma doveva essere italiana a dispetto di tutti, o sarebbero scesi in piazza a ricominciare le schioppettate. «O Roma o morte!» vociferava il professore, il quale aveva sempre notizie di guerre e di moti rivoluzionari pronti a scoppiare. E Don Blasco, tra le grida generali, sentenziava. «Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 48, che se allora non dava ascolto ai ritrivi, oggi sarebbe il presidente rispettato della Confederazione Italiana». Il principe mandava a chiedere notizie dello zio e nello stesso tempo l'avvertiva che Ferdinando stava molto male, che era bene fargli una visita. Don Blasco, a cui premeva sopra ogni cosa udire il verbo del suo nuovo amico, rispose: va bene, domani ci andrò». Ferdinando deperiva da un anno. All'arrivo del principe e alla proposta di mandare a chiamare un medico, l'infermo gridò che non voleva nessuno, che s'era rimesso interamente. Ma adesso tutti comprendevano che il caso era grave. Lucrezia, la compagna della sua fanciullezza, ebbe un bel insistere per dimostrargli la convenienza di una visita medica. Egli minacciò di chiudersi in camera e di non ricevere più nessuno. «Credi che costoro vengano qui per amor mio? Vengono per la roba. Un'altra volta direi loro che non ci sono». Ma la sua roba era già bella andata. Dapprima per le speculazioni stravaganti che avevano rovinato la terra, poi per le spese matte di libri ed ordegni, più tardi per le ruberie del fattore. Quando egli non aveva voluto vedere le ghiande neppure da lontano, s'era messo a fare qualche debituccio. Tra padre e figlio l'avversione era cresciuta frattanto di giorno in giorno. Con Salvo, per sfuggire alla compagnia del principe e per darsi contemporaneamente l'aria d'un sacrificato, disertava la casa paterna. Ma invece di andarsene con gli amici al caffè, al club, andava dallo zio, al quale portava i giornali e leggeva le notizie politiche. L'infermo s'appassionava moltissimo alla guerra minacciata. Era quello, anzi, l'unico tema che avesse la virtù di sciogliergli la lingua. Don Blasco, venuto finalmente a visitare il nipote, discuteva anche lui con passione intorno a quel soggetto. Ma il duca assicurava a tutti che si trattava di un falso allarme e che la guerra non ci sarebbe stata, con un'aria così convinta come se Napoleone gliel'avesse confidato in gran segreto. Scoppiò finalmente la notizia della dichiarazione e il granduomo esclamò allora che Bismarck e Guglielmo dovevano aver perduto la testa. O scherzavano? Attaccare Napoleone! L'esercito francese, il primo del mondo, avrebbe sbaragliato, tritato, polverizzato il prussiano e preso Berlino fra 2 settimane al più tardi. Invece arrivarono i telegrammi annunzianti le vittorie tedesche e allora gli avversari del deputato ripresero a svertarlo con maggior lena. Quella bestia, con la prosopopea d'un Cavour redivivo, non era neppur buono di capire le cose più evidenti. Smentito dai fatti, ostinavasi nella sua sciocchezza, annunziava i nuovi piani dei francesi, la loro imminente rivincita, l'intervento delle potenze. Ferdinando, dal fondo della poltrona, che adesso non lasciava più perché le gambe non lo reggevano, stava a udire quei discorsi con tanta ansietà, quasi ne dipendesse la sua salute. Frattanto il duca, sentendo crescere l'opposizione e venirgli meno il terreno sotto i piedi, comprendendo la necessità di far qualche cosa per rialzare il proprio prestigio, preparava un colpo di mano. Benedetto, quantunque spendesse tutto il suo tempo al municipio, mise insieme una redazione di impiegati comunali e di maestri elementari e pubblicò il foglio. Lucrezia fece cose dell'altro mondo contro quella bestia che voleva Roma adesso, quasi potesse mettersela in tasca o portarla a vendere alla fiera. Ma gli infiammati articoli di Benedetto, il quale diceva che il duca era col popolo, pronto a partire per Firenze se i governanti non volevano udire la voce del paese, procuravano all'onorevole una nuova aurea di popolarità.